sul far della mattina per portare ordine e disciplina. Ma non era così obbediente quel giorno il rosso oltre torrente. Era un caldo 2 d'agosto e l'attacco era ormai pronto, ma nessuno batte ciglio nel quartiere del Naviglio. Si scavano trincee come nel 15-18 e adesso gli operai sono pronti alla lotta. Barricate di sassi, legno e terra, il popolo ora è pronto alla guerra. Erano pochi gli arditi contro la molti, ma non si vedea paura sui loro volti. Balzano fuori con bombe e moschetti, respingono i nemici maledetti. Peggiori non sposti.